E questi erano i Black Wave, duo hip hop belga composto dal produttore William Hardway e dal rapper Jay Walker. La canzone era Wash Good, tratta dall'ultimo loro lavoro No Sleep in Los Angeles, pubblicato pochissimi mesi fa. Allora torniamo in diretta con Radio Tagadà. Come detto prima, avremmo concluso la nostra serie di interviste settimanali con un compagno, provando a parlare un po' della città che cambia, della Milano che cambia, nello specifico del quartiere Giambellino, che è stata attraversata anche dall'ondata repressiva con la sentenza di primo grado del processo Robin Hood. E ora ci colleghiamo appunto con il compagno. Ciao, ci senti? Sì, voi mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro, forte e chiaro. Perfetto. Grazie e benvenuto a Radio Tagadà. Allora, come già accennato durante tutta la puntata, proviamo a parlare un po' del Giambellino e ti volevamo chiedere, insomma, come è cambiato il quartiere negli ultimi anni e come gli interventi della cosiddetta riqualificazione stanno incidendo sulla vita quotidiana di quell'angolo di Milano. Ah, dunque, allora, il quartiere direi che sta cambiando parecchio. Da quando c'eravamo noi, che vale la pena ricordarlo, non siamo più in quartiere perché il comitato è stato smantellato dall'operazione repressiva. Diciamo che già quando c'eravamo era iniziato questo piano di riqualificazione che prevedeva investimenti sui 90 milioni di euro, che sostanzialmente prevedeva l'abbattimento di vari palazzi popolari per una successiva ricostruzione, però non meglio specificata, quindi non si sa bene se le case che verranno ricostruite, intanto se verranno ricostruite, e poi quale sarà la loro effettiva destinazione d'uso. È lecito aspettarsi, insomma, che non sarà completamente nel quadro di ricostruzione di case popolari, anche perché quello che si è visto finora per quanto riguarda, diciamo, la ricostruzione e la costruzione della metropolitana al posto di un palazzo di case popolari che stava in via Lorenteggio. Quindi diciamo che questo progetto si è già avviato da tanto tempo e ormai è parecchio avanzato, tant'è che continuano gli abbattimenti di palazzi popolari in Giambellino e conseguentemente anche gli sgombri, gli svuotamenti delle case, gli spostamenti degli assegnatari, eccetera, eccetera. Sostanzialmente si sta preparando il terreno alla nuova Giambellino, che intanto sorge un pochino dall'altro lato. Ci sono dei grattacieli di housing sociale che sono nati negli ultimi anni, che insomma si affacciano sul quartiere. E insomma, direi che poi quando inizierà la metro probabilmente inizieremo a vedere un po' come sarà il cambiamento, anche perché la metro collegherà direttamente il centro a Giambellino in modo molto comodo. Per esempio, basterà un quarto d'ora per arrivare in università, quindi è facile immaginarsi che quelle che una volta erano case popolari diventerebbero probabilmente delle case date magari appunto agli studenti, tanto per intenderci, magari date a determinate categorie sociali, considerate più insomma comunque accettabili a livello sociale, piuttosto che creare il quartiere popolare per come lo sappiamo, cioè per come sappiamo che sono sempre esistiti, quindi con le loro sacche di povertà, con tutto quello che questo comporta, e quindi magari mettendoci delle categorie più precise come gli studenti, si riesce in qualche modo a riqualificarlo secondo il progetto, no? E un po' questi sono gli intenti dichiarati, d'altro canto, quindi è quello che sta succedendo. Sì, noi in questa serie di puntate stiamo provando un po' a fare un viaggio nella Milano che cambia, nella città che cambia. Abbiamo parlato un po' di Via Gola, di San Siro, di Via Bolla, anche Cascina Merlata. Abbiamo accennato qualcosa sul nuovo quartiere, appunto ad esempio Cascina Merlata o Santa Giulia. E oggi stiamo provando a parlare un po' con te sulla questione del Giambellino Lorenteggio. Ma di sicuro in questo quartiere la nota dolente è che per chi si vive il quartiere, o meglio, come hai specificato tu, per chi si è vissuto il quartiere fino a poco tempo fa con il comitato abitanti, è arrivata la repressione, quindi volevamo un po' chiederti, un po' a freddo, dato che è arrivato un paio di settimane fa, il responso della sentenza del processo Robin Hood e quali prospettive apre, insomma, questa sentenza di primo grado in questo momento storico. Ma dunque, le sentenze penso che le conosciamo tutti. Comunque si tratta di condanne abbastanza pesanti, parecchio pesanti a dire la verità, e credo che appunto ci siano degli aspetti da evidenziare. Cioè, sicuramente il discorso su appunto i mandanti politici ed economici di questa operazione, nel senso che è un'operazione che è stata condotta dall'antiterrorismo milanese tramite appunto i ROS dei carabinieri. Perché interessarsi così tanto di un comitato di quartiere? Sostanzialmente per quello che dicevamo prima, sostanzialmente perché quando ci sono degli interessi economici molto forti rispetto a delle zone, si vuole provare a far piazza pulita, e comunque ostacolare determinati interessi significa già di per sé mettere in atto una condotta pericolosa. D'altro canto, le sentenze, si parla appunto di associazione a delinquere, quindi vediamo quella che è l'altra tendenza, il fatto di in quartieri popolari e in generale, mi viene da dire per esteso, un po' dappertutto, associarsi, quindi mettersi assieme, guardarsi negli occhi, parlarsi, organizzarsi, significa necessariamente compiere un atto criminale già di per sé da parte appunto dello Stato. Quindi è già di per sé un atto ostile il fatto di volersi mettere assieme, rompere la solitudine che ci può essere appunto in un quartiere popolare dove sostanzialmente si tende a ghettizzare, a isolare, anche appunto a dividere, perché poi dopo ci sono un sacco di divisioni nei quartieri popolari milanesi, non solo in Giambellino, però appunto Giambellino vive di stratificazioni anche di migrazioni varie, per cui ci sono state le migrazioni dal sud Italia prima, successivamente ci sono state le migrazioni di albanesi, poi di romeni, di africani, insomma, e tutte queste cose qua si sono stratificate nel corso del tempo, andando anche a creare varie divisioni e quindi vari conflitti anche. Quindi non solo ci sono i conflitti fra italiani stranieri, ma anche fra stranieri stessi ci sono i conflitti, fra assegnatari e occupanti, ci sono i conflitti fra chi paga e chi non paga, fra giovani e anziani. È tutto particolarmente complicato e tutto quanto particolarmente atomizzato, quindi il fatto di associarsi per rompere questo isolamento già viene considerato pericoloso. Quindi credo che l'implicazione più evidente in questo caso sia la tendenza appunto repressiva a livello statale di colpire in particolare tutte quelle situazioni che vogliono appunto andare a compiere questo gesto qua di rompere l'isolamento e di mettersi assieme. Loro lo descrivono con delle logiche appunto proprie di un militare che può scrivere l'indagine, perché appunto si parla di ruoli, di gerarchie, ma quello è il linguaggio che appartiene a loro, non è il linguaggio che appartiene sicuramente a noi che abitavamo là. Quindi quando, diciamo, si provano a rompere queste dinamiche di quella che hai descritto tu, è perfettamente la cosiddetta, anche banalmente, anche eccessivo ripetere, però effettivamente la guerra tra poveri, quando si provano a rompere queste dinamiche di guerra tra poveri e cercare di creare un po' di solidarietà trasversale, ecco, è lì che arriva la repressione, arriva a rompere, insomma, tutto quello che si sta creando. E giustamente noi, ma come voi, che come le persone dei comitati, insomma, che hanno subito la sentenza, ma anche noi ci accodiamo a gran voce al fatto che i loro ruoli e le loro gerarchie se le possono tenere per loro, e l'accusa, insomma, di associarci e di avere dei capi e dei mandanti la rispediamo al mittente in maniera completa, non ci rivediamo, insomma, in queste logiche di potere. Volevo poi farti magari una domanda che dove magari puoi darmi una sorta di analisi abbastanza soggettiva, nel senso, ti ho elencato prima una serie di modificazioni, cioè di quartieri dove, insomma, la città sta cambiando, quindi volevo sapere un po' Che visione hai tu? Una visione un po' di insieme sulla città che cambia, anche magari in ottica di preparazione alle cosiddette Olimpiadi del 2026 Milano-Cortina, se secondo te questa riqualificazione, che comunque in Giambellino è sicuramente iniziata con l'Expo, ne può risentire anche il fatto delle Olimpiadi, se va di pari passo, se comunque questa cosa influirà su Milano, insomma volevo avere un'opinione tua al riguardo. Ma secondo me, diciamo che Milano la possiamo, per usare una metafora figurativa, possiamo immaginarcela come veramente una palla messa su la famosa asse inclinata, sembra sempre rotolare verso più in basso, in questo caso in basso c'è un profitto, quindi si parla proprio di profitti a valanga, sembra veramente una macchina di denaro in cui tuttavia il denaro non è per tutti ovviamente. Anche se c'è da dire che a Milano appunto si guadagna di più a fare il cameriere rispetto a quanto guadagneresti a fare il cameriere altrove, ma pur sempre il cameriere fai. E comunque si parla sempre appunto di un certo genere di lavoro comunque mal pagato rispetto ai prezzi che ci sono, perché appunto è vero che gli stipendi sono più alti rispetto al resto d'Italia, ma il costo della vita è nettamente più alto, quindi è comunque una città particolare. Da questo punto di vista io credo che sia cambiata molto con Expo, che Expo un po' questa città l'abbia, diciamo, ribaltata e l'abbia estratto il maggior profitto possibile, soprattutto per innescare questa dinamica appunto che, a cui facevo riferimento prima, di inarrestabile continuum sull'estrarre profitto. Le Olimpiadi, seguendo quello che dice Sala, lui secondo me è giusto riprendere le sue parole, perché lui, che è stato manager di Expo, dice: siamo in una situazione differente rispetto a quella in cui eravamo prima di Expo. Prima di Expo eravamo non preparati, cioè Expo sarebbe stato stravolgente, adesso Milano è già pronta per le Olimpiadi, siamo già pronti, se ci fossero già domani già saremmo pronti, le strutture già possono esserci, il turismo ha avuto l'impennata che doveva avere, i quartieri sono già stati in larghissima parte riqualificati, stanno aprendo linee della metropolitana, sembra veramente tutto quanto inarrestabile, e credo che da questo punto di vista il capitale riesca ad arrivare in maniera abbastanza pervasiva ovunque. La materia più complicata di tutte sarà mettergli i bastoni fra le ruote, dal momento che appunto vediamo che quando ci si organizza per farlo, dopo arriva anche la repressione, arrivano pronti insomma a colpire, come sta succedendo anche in altri quartieri peraltro, quindi da questo punto di vista Milano mi sembra ben avviata, ed è difficile inserirsi in un ingranaggio che sembra così ben oleato e crea così tanto profitto. Forse l'unica maniera di inserirsi è quella di riuscire a ricordarsi che genera sì profitto, ne genera anche tanto, però appunto non per tutti, quindi forse è l'unica cosa. Perfetto, noi ti ringraziamo, non so se ci sono delle prossime iniziative in vista insomma del post sentenza, sì. Nel senso se ci saranno già delle iniziative programmate, se vuoi rilanciarle. Dunque, allora per ora non abbiamo ancora fatto uscire nessuna iniziativa programmata, di sicuro stiamo raccogliendo dei fondi per insomma sostenere tutte le varie spese che abbiamo, trovate il crowdfunding su Facebook, ma al di là di questo ci tenevo a dire che appunto su Facebook, oltre al crowdfunding, trovate anche un testo che abbiamo scritto di recente, in cui c'è un appello rispetto anche a come gestire le iniziative in solidarietà, e l'invito che si vuole fare a tutti quanti è quello di organizzarsi anche a prescindere dagli imputati del processo, quindi sostanzialmente a prendere in mano la questione repressiva che c'è stata in Giambellino come una questione, come almeno noi crediamo che sia, cioè una questione di tutti, perché appunto dare associazione a delinquere al comitato del Giambellino significa potenzialmente darlo a tantissime persone in futuro, quindi se è una questione di tutti vorremmo che tutti quanti se ne occupassero anche a prescindere da noi, perché crediamo che sia importante. Perfetto, noi guarda, ti ringraziamo e vi stringiamo idealmente forte forte, perché comunque questa condanna è veramente, vabbè, sicuramente esagerata, dato che il 416, il reato di associazione a delinquere, va dai 2 ai 5 anni. La condanna più alta è per 5 anni e 5 mesi, quindi ci immaginiamo che praticamente il giudice debba aver dato quasi il massimo per un'associazione a delinquere finalizzata all'occupazione e alla resistenza. Sarà molto importante. Bisognerà vedere, bisognerà le motivazioni. Sicuramente, certo, la cosa più importante sarà in appello a livello processuale decostruire questa cosa qui che non sta né in cielo né in terra, e quello che possiamo fare noi da fuori, come hai detto tu, è insomma provare a portare un po' di solidarietà, sia attiva, cercando di far uscire fuori tutta una serie di contenuti, ma anche insomma economica, per sostenere le spese legali. Bene, noi ti ringraziamo della disponibilità e ci sentiamo presto, sperando in buone nuove, magari nelle prossime interviste e chiacchierate con te. Va bene, dai, grazie. Perfetto, grazie mille. Grazie, ciao, a me. Ciao, buona giornata.